Benvenute, bentornate a Cabaret Voltaire e a Exalge, su Radio Exalge per chi ci sta ascoltando. Allora, questa sera, come avrete forse già sentito, come ospiti ho invitato Lorenzo e Anita perché per parlare di ascolto insieme. Questo è successo perché Lorenzo, che è un mio amico, a un certo punto, un po' di mesi fa, ha iniziato a raccontarmi della sua tesi magistrale, che si intitola Ascoltare per comprendere, filosofia della percezione uditiva e dell'esperienza sensibile del mondo sonoro, che già solo il titolo mi sembrava una bomba, quindi ho pensato, ok, ti invito subito a Cabaret Voltaire, perché penso che il tema in sé sia perfetto per, diciamo, la filosofia di questo programma radiofonico, che, ripeto, per chi magari ci ascolta per la prima volta, ha un po' l'intento di mettere in discussione dei principi che ci governano, che magari diamo un po' per scontato, cercando di dare sempre degli spunti diversi, dei punti di vista diversi sulle cose. E quindi mi è sembrato molto interessante il fatto che Lorenzo abbia deciso di mettere un po' in discussione il fatto, il principio che governa forse un po' la nostra società, quello di, cioè, che attraverso, diciamo, l'oculocentrismo e il logocentrismo noi abbiamo capacità di comprendere e imparare, no? Insomma, dal mondo che ci circonda, e cercare invece, attraverso la valorizzazione della percezione uditiva e dell'esperienza, invece, dei nuovi modi per comprendere le relazioni e il mondo intorno a noi. E quindi forse chiederei a Lorenzo di presentarsi un attimo e di raccontare un po' meglio della sua tesi e magari anche del motivo che ti ha spinto a scegliere di parlare di questa cosa, cioè se c'è stato magari un aneddoto che ti è successo, o invece se hai pensato che fosse appunto un argomento importante che volevi mettere in discussione. Peraltro, la tua tesi mi sembra che inizi proprio citando un aneddoto di John Hall, e quindi non so se vuoi anche entrare un po' nel merito, spiegare un po' questa cosa. Va bene, grazie mille per l'invito. E io sono Lorenzo Cattel, ho studiato filosofia in statale qua a Milano, ma da sempre sono al pianoforte, quindi ho sempre avuto anche un orecchio per la musica, ho sempre cercato di portare le due cose in parallelo, da una parte la filosofia, la teoria, ma cercando di renderla il più pratica possibile, il più concreta rispetto all'esperienza di quella che poi è la nostra vita, e dall'altra parte fare arte, fare musica, ascoltare musica, cercando però anche di capire che cosa ci sta dietro. Quindi è una pratica che facciamo, ma che ha tutti dei significati che porta sempre con sé. E in magistrale mi sono specializzato in estetica, ho seguito dei corsi molto belli di estetica del performativo, che quindi vanno a vedere l'estetica, la filosofia estetica, la filosofia dell'arte, non come magari si poteva pensare nell'Ottocento, come una filosofia del bello, di ciò che è bello, ciò che è brutto. Si dimentica completamente di queste categorie e va invece a pensare a una filosofia della percezione e di come noi lavoriamo e trasformiamo la percezione, la materia che percepiamo per creare dell'arte, ma anche semplicemente per creare degli artefatti, per creare delle modalità di comunicazione e di relazione. E in realtà l'idea della tesi, il primo imprinting, non è nato da me, ma dalla professoressa con cui ho fatto un corso, che si chiama Chiara Cappelletto, che poi è stata la mia relatrice, che in un corso appunto di estetica del performativo ci ha fatto notare quanto nella nostra cultura occidentale la storia dell'estetica, o il modo in cui percepiamo l'arte e l'estetica, è molto influenzato dal senso della vista. Per cui, se noi parliamo per esempio di storia dell'arte al liceo, è storia delle arti visive. Il resto è storia della musica, storia della danza, storia del teatro, ma quando dici arte è la pittura, non devi dire storia della pittura. E, appunto, la mia professoressa usava il termine pregiudizio ottico, che è appunto l'idea che in generale noi siamo, il nostro modo di pensare, di concepire il mondo e la conoscenza è molto influenzato da questo pregiudizio che mette la vista come un senso più importante rispetto agli altri. Quindi da lì è un po' partita l'idea per la tesi di iniziare a pensare all'ascolto, a che cosa voglia dire ascoltare, a cosa voglia dire ascoltarsi. Questo non solo, cioè sono partito appunto dall'estetica, dal pensare alla musica, ma in realtà è comunque un argomento che è facile applicare a qualsiasi altro contesto. Cioè mi sembra abbastanza ovvio che, non abbastanza ovvio, però ci rendiamo facilmente conto che siamo in una società in cui, tra tutti gli stimoli, tra tutta la velocità in cui siamo immersi, facciamo fatica spesso a fermarci per ascoltare e ascoltarci. E quindi poi ho cercato, partendo da una filosofia della percezione, una filosofia della conoscenza, e arrivando a una filosofia dell'arte, dell'estetica e della musica, di andare a vedere cosa ci può insegnare il senso dell'ascolto, cosa ci può insegnare l'orecchio che la vista magari non ha ancora, o almeno che la vista come ci viene insegnata non ci fa vedere, non ci mette davanti. La tesi, come dicevi, sono partito da una citazione di John Hall, che è uno scrittore. Lui nasce come teologo, un accademico americano, e che è rimasto cieco intorno ai 35 anni. Cioè prima ha perso vista da un occhio, poi ha perso vista dall'altro occhio. E lui era una persona che faceva molto affidamento al senso della vista. Poi ho letto diverse biografie di persone che sono diventate cieche, ed è interessante notare la differenza di come hanno vissuto questa esperienza di diventare ciechi, anche in base a quanto già prima erano o meno legati al senso della vista. Lui era molto legato e quindi ha vissuto come una forte perdita questa di perdere la vista. Negli anni ha registrato una serie di ricordi, di aneddoti, che poi sono diventati una sua autobiografia, in cui appunto racconta come ha imparato a navigare il mondo non potendosi più servire del senso della vista, e quindi dovendo usare soprattutto il senso dell'ascolto e il senso del tatto. Sì, infatti mi è piaciuto tantissimo una frase che ho letto appunto di questa introduzione, in cui scrivi che grazie all'ascolto lui impara a comprendere la propria posizione nel tempo e nello spazio, e a entrare in contatto con la realtà circostante. Grazie proprio all'ascolto, diciamo, è in grado di incontrare il mondo nella sua totalità. Che mi è sembrato bellissimo come concetto, cioè anche di un po' degerarchizzare i sensi, no? Cioè non più appunto dando solo valore alla vista o al parlare, o insomma, ma cercando di vedere come, cioè, forse proporre una nuova educazione all'ascolto come mezzo di conoscenza, no? Che mi sembra appunto un punto molto bello, molto interessante. Sì, e forse la cosa più interessante a riguardo, la cosa che più ci insegna l'ascolto, è che questa totalità di cui parla, quella di cui stiamo parlando noi, non è una totalità fissa e statica. Non è una terra guardata dall'alto, dal telescopio, è improvvisamente l'immagine intera della terra. Questa è la terra con la T maiuscola. Sì, quella che percepiamo tutti i giorni. Esatto, è una totalità che è in costante divenire. E, appunto, prima abbiamo citato, tu hai usato la parola oculocentrismo, io ho detto che la mia professoressa usava la parola pregiudizio ottico, ma poi leggendo, studiando, ho visto che appunto più studiose e studiosi sono la parola oculocentrismo. E si riferisce a un... appunto una predominanza del senso della vista nel creare conoscenza, ma non un senso della vista che è davvero un occhio, l'occhio del corpo che si muove nel mondo, che continua a guardare prima una cosa e poi un'altra, su, giù, destra, sinistra, in costante movimento, un occhio sferico. Quello che è successo nella storia della cultura occidentale è che si è un po' idealizzato questo senso della vista e si è immaginato come la vista di uno scienziato che dall'esterno guarda il mondo, lo analizza come se fosse qualcosa di neutro rispetto alla persona che analizza, e qualcosa di statico, di fisso, di immobile. Perché in effetti la vista, più degli altri sensi, ci porta a pensare, ok, c'è una staticità davanti a me e io la posso analizzare. Ma non è così, noi l'abbiamo, cioè ha quel potenziale, la vista, ma è un potenziale che poi nel corso della filosofia occidentale è stato sfruttato fin da Platone, che guardava le idee, queste idee con la lettera maiuscola, che sono proprio lì, fisse, immobili, stabili. E invece, riscoprendo l'ascolto, ma anche tutti gli altri sensi, ci rendiamo conto quanto questa totalità sia sempre una totalità in costante divenire. Sono sempre delle percezioni che ci arrivano. Sì, infatti l'ho molto anche... cioè, nel leggere la tua tesi, un'altra cosa che mi è interessata molto è stato vedere come ci fosse anche un po' una... mettere in discussione la razionalità e l'emotività, no? E come siamo una società molto razionale. Poi adesso entrerò più nel merito di stimolarti su questa cosa, anche perché la nostra tradizione filosofica, storica, si basa su questo. E quanto invece magari penso che sia molto più vicino alla società di oggi, dei giovani d'oggi, quello di riscoprire la propria emotività. Però prima di parlare di questo volevo presentare un attimo Anita, e quindi magari se hai voglia di spiegare un po' come ti sei inserita, qual è il tuo rapporto con Lorenzo, certo. E, no? Ciao a tutti, ciao. Tutti, ciao che siete qua con me. E allora io mi chiamo Anita, oddio, mi chiamo Anita Borella e ho studiato filosofia in statale, dove ho conosciuto questa meravigliosa creatura. La caniana. Mi sono laureata anch'io poco fa con una tesi sull'inconscio freudiano, tirando in mezzo Lacan, Derrida, una serie di robe. Diciamo che appunto, cioè, apparentemente io mi sono occupata di cose che c'entrano poco con quelle di cui si è occupato Lollo. Nel senso che se uno guarda insomma la psicoanalisi e poi invece l'estetica del performativo barra le prospettive anche materialiste che stanno dietro alla tesi di Lollo, dice ma cosa c'entrano queste due robe? In realtà però diciamo il mio oggetto di elezione e l'oggetto di elezione di Lollo hanno delle cose in comune, cioè in entrambi c'è in gioco una dimensione di ascolto. E appunto nella psicoanalisi vabbè c'è una dimensione di ascolto ovviamente, perché cioè, pensiamo subito al lettino, alla stanza d'analisi, è un posto dove di base noi paghiamo qualcuno. Non è così facile arrivare al lettino, attenzione. No, però insomma, lettino, poltrona o anche in ginocchio per terra, comunque di base cioè l'analista è una persona che noi paghiamo per ascoltarci tendenzialmente, anche sto anche nel, come dire, nella vulgata, però appunto in realtà a me quello che interessava della dimensione dell'ascolto nella mia tesi era più che altro diciamo a livello proprio più teorico, cioè riguardante la psicoanalisi proprio come disciplina teorica. E appunto quello che mi interessava dell'inconscio freudiano è che diciamo, si crea una dinamica un po' paradossale all'interno di questa disciplina teorica che è la psicoanalisi, perché questa disciplina appunto si fonda su un oggetto che nel momento stesso in cui viene posto a fondamento, e quindi il signor Freud dice allora la nostra disciplina si fonda su questa cosa che io intendo così e cosà, in quello stesso momento diciamo viene inventato un oggetto che per definizione è indefinibile. E quindi appunto fondamentalmente si crea un po' un paradosso. Quello che è interessante appunto di questo oggetto indefinibile e inafferrabile che è l'inconscio è che appunto l'unica modalità anche teorica e non solo pratica nella quale ci si può porre in relazione a questo oggetto è appunto una dinamica di ascolto. Cioè anche teoreticamente non è possibile quell'atteggiamento diciamo aggressivo, diciamo quella filosofia col coltello fra i denti che possiamo diciamo dire che forse sia stata insomma in larga parte la filosofia occidentale, no? Con la sua pretesa di afferrare, definire, spiegare, sì. Avere delle idee chiare e distinte. Ecco, di chiaro e distinto nell'inconscio non c'è proprio niente. E quindi questo fatto che non ci sia niente di chiaro e distinto di fatto pone la psicoanalisi proprio appunto anche soltanto come disciplina teorica, quindi anche fuori dalla stanza d'analisi, in ascolto di un'alterità radicale che viene diciamo fatta entrare all'interno del campo della parola. Sì, infatti forse mi collego un po' a questo discorso per riprendere quello che stavo dicendo prima. Io non sono una filosofa, vorrei dire, men che vero psicologa o psicoanalista. Attenzione a dire esatto. Che gli analisti sono gli psicologi, perché qua potremmo... Sì, apriamo una parentesi molto ampia, però per mia esperienza personale mi sembra di aver capito che invece in realtà... la psicoanalisi lacaniana abbia proprio, come dicevi tu, no, proprio perché l'intento è quello di indagare l'inconscio più che essere, non so, una psicoanalisi o una psicoterapia, quindi più pratica, mm-hmm. pragmatica, abbia l'intento di a un certo punto darti gli strumenti per avere un libero linguaggio e quindi in questo senso anche un libero pensiero e quindi un'associazione di parole che non necessariamente creano dei discorsi logici ma che riflettono una parte inconscia della, insomma, di noi, di ciascuno di noi e quindi in qualche modo nel momento in cui sono passata al lettino e ho fatto questo click incredibile, un po' traumatico, ho capito che l'intento era quello proprio di lasciare sempre più che fossero le mie emozioni a governarmi più che la mia razionalità e parlo proprio per un'esperienza personale, è difficilissimo, cioè nel senso io non credo che noi siamo abituati ad avere questo approccio alle cose, anche di pensare che le emozioni, che sono delle cose che sono totalmente incontrollate, possano in qualche modo invece aiutarci a capire meglio il mondo intorno a noi, cioè cresciamo nell'idea che invece bisogna avere tutto molto chiaro, definito, etichettato per poterlo comprendere, perché in qualche modo forse ci aiuta a gestire meglio le nostre paure, no? Le nostre ansie, avere delle risposte chiare, sapere quello a cui andiamo incontro, invece qualcosa che è inconscio, ignoto, ci spaventa e quindi è difficilissimo anche crescere col coraggio di poter dire ok, mi butto e ci provo e vedo cosa succede. Su questo mi veniva in mente una cosa mentre parlavi, cioè, e collegandomi anche a quello che diceva prima Lollo, cioè tu appunto parlavi, no, di quello che c'è al di là della razionalità, quindi le emozioni, insomma, di altre cose nell'analisi e sì, cioè perché io associo, cioè per spiegarlo, questa cosa dell'ascolto anche molto a questo, cioè certo. Imparare ad ascoltarsi vuol dire anche imparare a smettere di pensare troppo razionalmente, sentire, no? Quindi certo. Proprio la parte più emotiva. Sì. Allora, assolutamente, cioè questa cosa qua è centrale nella psicoanalisi, cioè sembra quasi che appunto la psicoanalisi, secondo me, sia freudiana sia lacaniana, è proprio, come dire, ha la missione di come dire, scuotere un po' questo soggetto che è irrigidito sulle sue pretese appunto di chiarezza, di razionalità, di io sono questo, io sono quello, io sono un bravo professore, io sono una brava studente, io sono una cattiva studente, perché poi anche quella in realtà è una maschera. È come se appunto, cioè la grande mossa di Freud nel dire regà, guardate che c'è l'inconscio e l'inconscio è la realtà, e se è la realtà vuol dire che è tutto e che noi comunque ne possiamo prendere dei pezzettini a spizzichi e bocconi, cioè questa mossa qua fondamentalmente è la mossa di dire all'io senti fratello, te hai pensato che eri il capo del mondo, la tradizione filosofica è occidentale, quantomeno sono 2000 anni che parla dell'io come appunto capace di volontà, capace di pensiero, capace di questo, capace di quello, come di tutto quello che c'è da dire, diciamo, della persona umana, no, le cose non stanno esattamente così, cioè quella roba lì è una scheggia persa in un oceano di cose diverse. E quello che secondo me è interessante, appunto, che mi veniva da ricollegare al discorso che faceva Lollo, è che anche Lacan, cioè vabbè, insomma, di Lacan adesso si potrebbe parlare 5 ore, però cercherò di essere breve e dire quello che volevo dire, cioè che insomma Lacan è molto famoso per tutto questo discorso del significante, il significato, eccetera, queste cose che poi la gente praticamente stacca le orecchie e dice ok, non sto capendo più niente. Però in realtà è più semplice di quello che sembra, almeno secondo me. Però in realtà prima di iniziare appunto a fare questa cosa che poi è quella che diciamo si chiama svolta strutturalista, cioè prima di iniziare a parlare di tutte queste robe, già all'inizio, cioè già negli anni 40, Lacan ha molto riflettuto su la figura dello specchio, cioè tutta la sua riflessione parte da appunto questa cosa che poi si chiama, diciamo, in accademichese stadio dello specchio, che c'entra con il discorso che faceva prima Lollo, quando tu gli chiedevi, no, di questa totalità che c'è al di là della vista. E secondo me questa, appunto, questo stadio dello specchio è interessante proprio come figura che contiene i due discorsi che avete fatto voi, nel senso che fondamentalmente quello che Lacan dice su questo automatico specchio è che c'è una fase nella crescita del bambino e della bambina che diciamo coincide con quel momento in cui appunto il cucciolo di essere umano si trova in una situazione in realtà di, lui dice, corpo a pezzi, no? Cioè di difficoltà, nel senso tipo il seno della madre va e viene, io c'ho fame però non lo posso avere, cioè tutto un casino, cioè in balia degli eventi. E però c'è appunto questa figura dello specchio che è accompagnata da quella di una figura adulta che appunto tiene in mano questo, in braccio questo cucciolo d'umano, e gli dice guardati nello specchio, guarda come sei bello, guarda sorridi, ridi. È un classico che i bambini sorridano o ridano davanti allo specchio, perché quello è il momento in cui appunto, secondo tanti ma anche secondo Lacan, il bambino si, e la bambina si vedono per la prima volta come un corpo unito, cosa che in realtà appunto Lacan dice fondamentalmente è una finzione, cioè nel senso quella cosa lì è vera, nel senso che la percezione è quella e ci viene, è vero che ci viene insegnato a vederci uniti nello specchio, però in realtà la situazione che il bambino vive è una totalità altra, appunto, cioè è una totalità di percezioni, di cose molto diverse che in realtà lo rendono... C'è tutta una parte interiore che non vedi riflessa. Sì, cioè, totalmente, cioè appunto questo corpo a pezzi, questo essere in balia degli eventi, cioè quando abbiamo appunto, non so se avete presente i bambini di 6 mesi, 1 anno, cioè loro non hanno idea del fatto che il loro piede è diverso dalla palla, cioè è tutto una rete di cose. E quindi niente, fondamentalmente questa, secondo me questa figura qua dello specchio di Lacan mette un po' insieme i discorsi che facevate voi, perché è come se lui dicesse tutta la psicoanalisi non è altro che un'opera di, come dire, di indagine, di andare a scuotere questo specchio, cioè fondamentalmente, perché tu comunque per la prima volta ti vedi nello specchio, ma poi dopo quella dinamica lì è la dinamica che ti seguirà per tutta la vita, cioè anche quando tu a 40 anni ti guardi nello specchio e dici, anche senza guardarti nello specchio, presenti il tuo bigliettino da visita e dici sono un famoso professore, piuttosto che sono una bella ragazza, sono questo, sono quello, sono tutte identificazioni, cioè il meccanismo è sempre quello appunto di un'identificazione proiettiva che ha a che fare un po' appunto col discorso che facevi tu rispetto a una totalità che... È una sovrastruttura, cioè di fatto devi sentirti, cioè per questo dicevo cresciamo un po' nell'idea di doverci sempre rispecchiare dentro qualcosa che è già stato prestabilito da qualcos'altro, nel momento in cui non ti ritrovi in quelle cose lì entri in crisi e dici oddio allora forse sto sbagliando il mio modo di essere, come mi devo comportare, e invece di abituarci a capire le nostre diversità e le diversità degli altri e quindi imparare ad avere quell'ascolto, cioè di fermarsi magari e dire ma forse la persona di fronte a me reagisce alle cose in un modo diverso e quindi mi fermo un attimo e non lo giudico, non la giudico subito per quello che sta facendo, ma cerco di capire, cioè è anche un discorso, cioè una educazione all'empatia, penso, no? Cioè a fare un passo indietro e non pensare che quello che siamo noi e pensiamo noi sia l'unica via o l'unico modo di vedere le cose e le persone. E, anche perché non vale neanche per noi stessi, quindi figurati per gli altri. Esatto. Cioè un po' diciamo l'idea della psicoanalisi è quella, cioè questo grande altro è prima di tutto dentro di te, quindi figurati quando si parla degli altri, cioè già dentro di te ci sono miliardi di cose, figurati quando si parla di una collettività di voci diverse. Sì, infatti credo che un grande punto sia anche l'idea di un altro che siamo anche noi e che soprattutto è in costante movimento, cioè quello che il bambino, quello a cui viene insegnato al bambino, alla bambina davanti allo specchio, quello sei tu e sei una persona unica, fissa, immutabile, e fino ai 40 anni, 50 anni, 60 anni rimarrai sempre tu, invece che avere quella situazione di un costante divenire, un costante cambiamento. E appunto un po' tutta la storia della filosofia occidentale può essere anche scritta più o meno in questi termini, fin da Platone che dice dimentichiamoci del divenire e pensiamo solo alle forme stabili, fisse, che noi andiamo a guardare con lo sguardo. e poi arrivi, cioè, e questa cosa si collega molto a uno sviluppo del senso della vista. Per esempio arriviamo alla prospettiva rinascimentale, anche quella è tutta una matematizzazione di quello che vediamo, che più che usare l'occhio usa anche molto il cervello, usa la geometria, usa dei calcoli per costruire un quadro e dire questo è esattamente quello che vediamo e sta lì fermo immobile. Ed è arrivato appunto fino a noi, fino alla storia dello specchio. E una cosa che è stata molto interessante di un collegamento tra quello di cui si è occupata Anita, che ha studiato Anita, e quello di cui mi sono occupato io, è che anche Hannah Arendt parla, cioè, usa una metafora che è praticamente la stessa dello specchio, però traslata in scala globale. Per cui anche Hannah Arendt ha detto che appunto che la società occidentale intende la verità in termini visivi, quindi tutto quello che stiamo dicendo fino adesso, per cui ci dimentichiamo spesso degli altri sensi per conoscere attraverso lo sguardo. E nella condizione umana, lei a una certa parla dei tre avvenimenti grandi, importanti, che hanno cambiato completamente il corso della storia della cultura, della storia del pensiero, e formato quello che è il pensiero moderno. E dice, una è la riforma protestante, e dici, boh, mi sembra, cioè, ci sta, eravamo in Europa tutta unita, tutti cattolici, bla bla, quelli se ne vanno, aiuto. Una, la scoperta delle Americhe, e di nuovo dici, wow, c'è un altro continente, sembra un altro mondo, wow. E una è l'invenzione del telescopio. E uno che legge Hannah Arendt dice, ma che cosa c'entra l'invenzione del telescopio insieme alle altre due? Cioè, mi sembra ridotta l'importanza di questo avvenimento rispetto agli altri. Invece lei fa questo discorso per cui dice, nel momento in cui l'essere umano impugna un telescopio per guardare lontano, prima di tutto ha uno sguardo più ampio, quindi può mettere più cose insieme e può fare più connessioni tra queste cose, ma si anche allontana da queste cose. Io vedo la barca che è lontanissima rispetto a me e quindi mi faccio esterno rispetto a questa barca, e quindi traslando mi faccio esterno rispetto al mondo che mi circonda. Ma poi lei dice, prendendo il telescopio possiamo guardare la Luna, e in un capovolgimento prospettico possiamo immaginarci la Terra immaginata dalla Luna. Quindi possiamo immaginarci di vedere l'intero mondo in una vista unica, quindi uno sguardo che subito, pam, rende un istante unico tutto il movimento, tutte le connessioni, le percezioni che stanno avvenendo su questo globo. Ok, fotografia, quello, basta, stop. E quindi ci si dimentica appunto del movimento, ci si dimentica della vita che avviene sempre immersa in quello che ci sta succedendo, che l'ascolto ci può ricordare, perché è sempre una cosa appunto immersiva. Sì, ma infatti una cosa altra che ho trovato interessante della tua tesi, che un po' si lega a questo discorso, è quando a un certo punto entri nel merito dell'arte, no? E citi Alva Noe, e per il fatto che forse, diciamo, a una lettura più superficiale uno può pensare, comunque anche rispetto a quello che dicevi prima sulla prospettiva rinascimentale, che l'arte in qualche modo sia uno specchio della realtà, no? E quindi che cerchi di essere il più possibile fedele, perché l'idea, almeno soprattutto penso proprio per l'arte del Rinascimento, l'arte, diciamo, moderna, della maniera moderna, ha questo intento, no? Cioè di raccontare la realtà alle persone, di essere anche un po' educativa, è un'arte cristologica, e quindi ha un intento molto di essere fedele alla realtà, penso, rispetto all'arte contemporanea, che invece la mette in discussione totalmente. E invece a un certo punto mi sono imbattuta in questa frase che mi ha aperto un mondo, perché ho pensato, ecco, vedi perché mi piace l'arte, perché tu scrivi che l'arte invece disturba, scompiglia e interroga la cultura per riorganizzarla sempre da capo e ripensare ai modelli, e che effettivamente, pur nella sua, diciamo, fedeltà alla realtà, l'arte ha sempre avuto questo intento. Cioè, se penso a quello che ha spinto gli artisti a creare, è sempre stato quello di forse lasciare, cioè, libero sfogo a una parte più interiore di dubbio. Cioè, penso anche il titolo di questo programma radiofonico è Cabaret Voltaire, e gli artisti Dada hanno fatto esattamente questo, cioè hanno scompigliato completamente la realtà in un periodo in cui non si poteva forse mettere in discussione certe tematiche, e invece l'idea era quello di lasciare nel senso da Cagnano, una libertà interiore, no? Cioè lasciare, cioè rappresentare anche le cose più turpi del nostro cioè del nostro, la parte interiore, e quindi mettere in discussione, diciamo, le immagini ci può offrire la possibilità di interrogarci e rimodellare la nostra cultura. Mm-hmm. Sì, no, è molto interessante, molto utile, perché lui appunto parla di arte come una pratica riorganizzativa. Lui dice che noi siamo, come esseri umani, siamo già organizzati sostanzialmente, in tutte le azioni che abbiamo, in tutte le percezioni che abbiamo. Per esempio parla proprio dei sensi, della vista, dell'udito, come delle percezioni organizzate, per cui impariamo a, se io sposto gli occhi a sinistra, il mio campo visivo si muove in un determinato modo. Se io mi tappo le orecchie, il mio campo uditivo cambia in un determinato modo. Quindi lui dice, appunto, siamo organizzati anche, per esempio, le interazioni con le altre persone, la conversazione, anche quella è una forma di organizzazione. E dice, quello che fa l'arte, ma anche la filosofia, è andare a prendere il materiale primario che ci organizza e, come dicevi prima, a scomporlo, a disturbarlo, a guardarlo da un punto di vista diverso, ascoltarlo da una posizione d'ascolto diversa, mettere le carte in tavola in un modo diverso, in modo da andare a capire l'organizzazione primaria. Sì, che cioè, a me ha fatto venire in mente molto Magritte, no? E questo suo mm-hmm. modo di, cioè lui tantissimo mette alla base questo principio nella sua pittura, cioè comunque nella sua arte in generale, cioè di rappresentare, cioè non so, la famosa, il famoso quadro della pipa, che dice appunto che non è una pipa, no? Perché di fatto l'arte diventa un mezzo attraverso cui noi possiamo indagare la realtà, ma non sarà mai la realtà, cioè non so come dire, è sempre certo. comunque una rappresentazione, mm-hmm. no? Mm-hmm. Da questo punto di vista, cioè mentre dicevi, no? Questa qua non è una pipa, cioè io, vabbè, ormai mi sono entrata nel ruolo di fare il controcanto lacaniano a tutte le cose che dite. Però è proprio come se appunto Lacan e anche Freud, cioè, dicessero, cioè, questo io non è l'io. Cioè questo io che voi dite che è capace di volontà, che è capace di questo, di quello, che è razionale, eccetera, non è l'io, cioè non è il soggetto. Cioè, c'è qualcosa che... Cioè, per me è importantissimo, perché penso anche nello strutturare le relazioni che abbiamo oggi, cioè adesso magari sto un po' divagando dal tema, però penso che tantissimo nella nostra generazione stiamo cercando di mettere in discussione i tipi di relazioni che abbiamo, no? Se penso che uno dei motivi per cui ho iniziato questo podcast è stato anche quello di, cioè, una mia amica che mi raccontava del fatto che stava sperimentando una relazione poliamorosa e non riusciva ad avere dei confini per capire come gestire questa situazione, nonostante fosse curiosa di mettersi in gioco. E quindi mi ha fatto proprio pensare, forse ci sta avere uno spazio in cui si possa sentire una voce che perlomeno ti fa sentire incluso, no? O inclusa, e capita, o comunque che non dia per scontato che certe cose si creino come con una struttura precisa, cioè ma quali relazioni, ma di qualsiasi genere, cioè non solo amorose, ma si possono identificare come dei paletti, cioè con, non so, penso che indubbiamente la nostra tradizione, forse anche quella italiana, sia molto borghese in questo e quindi abbia settato degli standard di come bisogna stare in una relazione, cosa devi aver conquistato a certa età della vita. E un pochino io mi ritrovo in mezzo, perché ho degli amici che sono molto, che trovano molto comfort certe cose di, non so, sposarsi, avere figli, cioè che non è, che non lo sto criticando come se fosse sbagliato, dico che però non necessariamente tutti poi rientrano in quella cosa lì, e mi è capitato tantissime volte di trovarmi in delle situazioni in cui, nel momento in cui io magari non mi sentivo, cioè senza giudizio verso gli altri, ma io non avevo quegli obiettivi, non venivo capita, o comunque c'è, cioè, la solita frase, ah, ma sì, ci arriverai anche tu, troverai il tuo posto nel mondo, ma boh, magari non è, cioè non è, non lo so, non è quello il mio, no? Sì. E quindi penso a quanto sia difficile anche proprio doversi giustificare, o dover appunto, per questo riprendo anche questo tema, che non c'è un'educazione all'ascolto e al rispetto, cioè che invece magari è una cosa un po' sciocca da dire, però ho percepito molto di più andando all'estero e vedendo come invece questa globalità di personalità fosse perlomeno più accolta, cioè poi per carità ci sono delle sfaccettature su tutte le cose, però ci fosse almeno quell'attenzione empatica. E quindi per questo penso che sia veramente importante come tema, e lo sposo tanto, quello dell'imparare ad ascoltare, perché è una cosa che comunque permea tutti gli aspetti della nostra vita, nel lavoro, nello studio, nelle relazioni, nel nostro modo di porci alle cose, e imparare ad avere anche cura, cioè non lo so, attenzione per le cose. E, niente, no, scusa, adesso ti ho interrotto. Su questo, magari riconnettendomi al discorso che facevamo prima sull'arte, c'è anche l'idea che appunto, come dicevo, che l'arte può essere intesa come qualcosa che riorganizza e ci aiuta a capire come siamo organizzati. In questo caso può anche essere una cosa che ci insegna ad ascoltare. Quindi se pensiamo appunto, se il problema è non ci ascoltiamo tra di noi, possiamo anche pensare alla musica come qualcosa che ci insegna a ascoltare i suoni che ci colpiscono, come ci colpiscono, cosa ci fanno sentire quando ci colpiscono. E poi quindi anche chi li ha prodotti, usando quali strumenti, quali tecnologie, in quale contesto, in quale spazio. E una cosa che poi ci può insegnare a fare in questo caso è anche proprio quello di, a quel punto, ascoltare le altre persone non solo per quello che ci dicono, ma per come ce lo dicono. Se pensiamo a non lo so, al fatto della musica classica che può essere riprodotta in mille modi diversi, allora perché ascolto Marta Argerich che suona e poi ascolto Pollini che suona lo stesso pezzo di come l'avevo già ascoltato prima? No, perché lo suonano in modi diversi. E quindi andiamo ad ascoltare non solo quello che la musica, cioè come è composta, la sua struttura, il suo significato, le sue regole sintattiche interne al linguaggio musicale, ma come tutto questo arriva al mio orecchio. Ed è una cosa che poi possiamo traslare nella conversazione di tutti i giorni, che possiamo traslare nel chiedere alla nostra amica come stai, e sì, certo, nel costruire una relazione. No, infatti sarei voluta poi entrare nel merito di chiederti, no, perché per adesso è stata una discussione abbastanza filosofica, però poi quali sono, perché poi nella tua tesi giustamente tu affronti anche degli esempi pratici per spiegare come ci si può educare all'ascolto, no? E citando Roland Barthes, e vorrei, come dice Guccini, avrei voluto che recensisse le mie canzonette, comunque, e poi Jean-Luc Nancy, e appunto parli della musica come strumento per la comprensione della significanza generale, no? E quindi dando degli esempi pratici di come possiamo imparare a essere educati all'ascolto. Mm-hmm. Allora, su questo intanto Roland Barthes adorerà Anita, perché... lui dice proprio che ci sono tre modi di ascoltare. Un primo modo va a concepire i suoni come degli indizi, quindi è il modo, diciamo, dell'allarme, dell'animale anche, oppure anche, suona il clacson, per me è indizio, sono in pericolo, mi tolgo dalla strada. Il secondo modo va a concepire i suoni come dei simboli, quindi A vuol dire A, cioè, se ci metto un K prima viene K, se ci metto Sa dopo viene casa, questo è il simbolo per la mia idea di casa. E quindi è l'ascolto del linguaggio, è l'ascolto che usiamo per comunicare. E lui dice, poi c'è un terzo modo che è il più radicale di tutti, in un certo senso, che è l'ascolto dello psicanalista. È l'ascolto che, come dicevo prima, va a ascoltare non solo quello che diciamo, ma come lo diciamo. Quindi va a ascoltare una significanza generale, lui la chiama, per andare a prendere un gioco, un rinvio di significati che va oltre ai significati, va nel modo in cui si interconnettono, in cui vanno a costruire una relazione, una comunicazione, per vedere come questi significati vanno ad aiutarci a comprenderci a vicenda e a comprendere quello che ci circonda, a comprendere la nostra vita, le nostre esperienze, le nostre paure, i nostri desideri. Sono sicuro che avrà qualcosa da dire a Anita riguardo. La, cioè, la parola significato è stata ripetuta troppe volte perché io non dico qualcosa in mente. No, vabbè, appunto, significato e significante sono le due parole che fanno appunto staccare le orecchie a chi sente parlare di Lacan tendenzialmente dopo un po', perché uno dice ma che tu cosa sta dicendo? Non sai quanto io ho odiato dicendo. Lacan, tra l'altro, mi fa molto ridere che io sia qui. Io sono qua a portare la buona novella. Farvi innamorare di Lacan. No, però appunto quello che è interessante, no? Cioè che abbiamo parlato prima della fase dello spettro. Adesso non voglio fare il pippone storico, lungi da me, non me ne frega niente. Però appunto, cioè lui parte da quella roba lì, della fase dello specchio, e poi questa roba qui in realtà appunto, cioè, rimane, diciamo, non è che non viene mai rinnegata, però fondamentalmente genera altre cose e secondo me appunto, cioè, genera proprio anche la famosa svolta strutturalista e quindi tutta questa attenzione per il significato e il significante, che è invece una roba che avviene negli anni 50, che è appunto fondamentalmente... Lacan appunto viveva alla Parigi di quegli anni lì, dove appunto c'erano Saussure e altri, e a un certo punto appunto viene colpito da questo discorso sulla di linguistica, no? Sul fatto che appunto il linguaggio è diviso in due, strutturalmente diviso in due, cioè mentre tu stai dicendo ciao Laura c'è una parte appunto che è il significato che tu puoi tradurre per esempio in hello Laura salut, e c'è una parte che invece tu non potrai mai tradurre, cioè ciao Laura nel senso del proprio del suono che è la canzone ciao Laura non puoi tradurla, cioè se tu hai un amico svedese a cui devi tradurre che suono ha ciao Laura in italiano non c'è modo, cioè o glielo dici in italiano rinunciando al fatto che lui capisca il significato oppure niente. Non percepirà mai l'altra e parte. Quindi fondamentalmente Lacan porta questa cosa nella psicoanalisi dicendo fondamentalmente cioè il, diciamo, la parte traducibile, cioè il significato è quello che la nostra coscienza sa, no? Noi pensiamo di parlare e dirci delle cose, dei significati, dei contenuti, ciao Laura, io mi chiamo Anita, io sono così, io sono cosà. Però in realtà c'è una parte in ombra del linguaggio gigantesca che è tutta la dimensione, diciamo, del suono, cioè il fatto che ciao Laura è ciao Laura. E quindi appunto questa cosa qua è molto interessante perché appunto avviene molto dopo che lui ha pensato questa cosa sullo specchio, sul fatto che appunto, cioè, lo specchio è l'inizio di quella dinamica lì per cui l'essere umano per tutta la sua vita penserà di poter dire che cos'è, di avere la presunzione di dire che cos'è, quindi appunto, cioè, da sono un corpo unito a sono una bella signorina, piuttosto che anche sono invece, non so, una baldracca, cioè comunque sono tutte sempre tutte cose che uno crede di essere. Invece appunto il significante porta tutta un'altra dimensione nell'analisi che appunto tu, Laura, conoscerai bene a questo punto. No, traumatizzata veramente. Per cui appunto, cioè, è molto importante il come lo dici. E ha ragione Bart, ha ragione Lollo. Cioè, è quasi tutto un fai attenzione a come lo dici. A come, cioè, lo dici. Cioè, per me è stato scioccante capire a un certo punto che la mia analisi si ferma su una parola. Cioè, certo. Io potrei parlare, non credo che alla mia analista mi gliene freghi un cazzo di sapere quello che io le dico, ma le interessa come lo dico, cioè, e quali sono le parole che scelgo per dirlo. Certo. Infatti, quando mi impappino e dico altre parole, mi ferma subito e mi chiede di indagare. Però appunto... E quindi non arrivi mai, cioè, capito, non arrivo mai a spiegare magari cosa mi è successo e qual è il dubbio che in quel momento ho, ma mi ferma in questi discorsi infiniti. Cioè, che oddio, durano 10 minuti. E, perché mi sembra di aver capito che si può, cioè, quando raggiungi l'apice, quando riesci a risolvere in 7 minuti. Basterebbero 7 minuti per risolverci. Probabilmente lei ti blocca perché lei cerca di impedirti di creare un altro specchio, cioè di dire no, io ho capito qual è il mio problema, io non sono X, io sono Y, e crei un'altra identificazione. Cioè, lei cerca, sì, di aiutarti a dire guarda che il punto non è capito, sostituire la X con una Y. Il punto è capire appunto che cos'è quella totalità che c'è fuori, per tornare all'esempio della pioggia, no? Che dicevamo all'inizio di John Dahl, non so. No, però forse non l'abbiamo spiegato del todo, ma effettivamente la citazione a cui mi riferivo io è appunto che lui esce e sente piovere, no? Poi non so, forse lascerai spiegare a te meglio. E arriverà insieme alla musica. Okay. Sì, fondamentalmente appunto c'è quest'idea che c'è una totalità che è al di là del fatto di vedere, e al di là del fatto di vedere, che può essere appunto vedere che cos'è una scena di pioggia, o anche appunto vedere chiaramente che cosa si è, vedersi chiaramente allo specchio. C'è molto al di fuori di questo, e appunto la psicoanalisi, soprattutto la psicoanalisi lacaniana, è come se fosse fondamentalmente un invito a cogliere tutto quello che appunto c'è al di là di questa immagine difficilissimo di dire. E su questo c'è una cosa che mi è sembrato di, cioè, che ho scoperto un po' leggendo, che era già un po' una mia idea ma è stata confermata da varie letture che ho fatto, è che un po' questa alterità, questa totalità altra, questo intraducibile, che ciao è diverso da hello, sono delle cose che il suono ci insegna per forza, perché se appunto, come dicevamo, siamo in una cultura che ci ha insegnato a catalogare tutto molto attraverso la vista, per cui il disegno di una casetta lo riconosciamo subito, quell'altro simbolo lo riconosciamo subito, e subito gli attribuiamo un significato, e quindi ci dimentichiamo del significante e diciamo, ah, io questa cosa la conosco, come la mia immagine nello specchio, ah, io questa cosa la conosco, sono io, punto. E invece il suono ha sempre un qualcosa di altro che non riesce a definire fino in fondo, un suono di un violino, una sedia che sbatte, un cane che abbaia, dici ok, questo può significare qualcosa per me, ma può anche significare tutt'altro. E anche lì, di nuovo, tornando all'arte, ci aiuta, perché pensiamo all'arte contemporanea, prende il cane che abbaia, lo lavora un po', lo mette dentro insieme ad altri suoni ambient e subito diventa musica. E dici, oh, prima era il cane che abbaiava, per me aveva tutto un significato, adesso è questo suono che mi colpisce, che è altro rispetto a me, che io non posso fare altro che ascoltare. Ed è tutta una cosa che appunto poi si trasla nel... Cioè, quando io e Anita facevamo la tesi insieme, cioè, pensavamo stiamo facendo due cose completamente diverse, ma ci è venuto in mente faremo un podcast insieme fra 6 mesi. E invece ci ritroviamo qua a parlare appunto, cioè, di questa alterità che non puoi fare altro che ascoltare, che una certa è l'inconscio del paziente sul lettino o l'inconscio della tua amica con cui stai snocciolando questioni importanti. E in un altro momento invece è un violino che fa una nota e dici questa nota posso inserirla in una sinfonia di Beethoven, ma posso anche ripeterla all'infinito e creare musica concettuale contemporanea, ed è sempre un qualcosa di diverso che però cerco di ascoltare, cioè trasformo un po' in una voce con cui cerco di mettermi in relazione. Molto vero. Vabbè, su questo ci sarebbero miliardi di, non so quanto tempo abbiamo, a un certo punto infinito. No, vabbè, su questo si potrebbe attaccare il treno Derrida, che avrebbe miliardi di cose da dire. Cioè, vabbè, a parte il fatto che Derrida è per me un dono di Lollo di cui gli sarò eternamente grata, però appunto Derrida scrive tanto, cioè lui è strafissato con il problema della traduzione, altrettanto fissato direi quanto Freud, che non si sa questa cosa, però tendenzialmente Freud, cioè, non fa altro che tornare su metafore linguistiche, metafore che hanno a che fare col registro della traduzione, comparando la psicoanalisi a un'opera di traduzione, eccetera. Per cui appunto se si fanno interagire queste due cose, diciamo queste metafore freudiane con Derrida, in particolare questo Détour de Babel, che non so, scritto proprio sulla traduzione, vengono fuori delle cose meravigliose. E in particolare appunto Derrida insiste tanto sull'intraducibile, per esempio sulla figura, la figura della voce appunto, che può essere appunto il cane che abbaia, eccetera, ma anche per esempio la figura della firma. Cioè lui, appunto, la domanda che lui si pone è come penseresti di tradurre una firma? Non c'è risposta. Come puoi tradurre una firma? E la stessa cosa appunto vale per l'inconscio dell'amica di cui parlavi, Lollo, così come appunto per l'abbaiare del cane che poi appunto diventa qualcosa di tuo, ma di tuo in una maniera appunto che non è la maniera dell'aggressività del pensiero, della filosofia col coltello tra i denti, cioè è un ricevere, è un accogliere, è un ascoltare. Mm-hmm. Sì. Forse su queste note del linguaggio a un certo punto citi nella tua tesi Adriana Cavarero, che è una femminista, una scrittrice, una filosofa, e diciamo la citi un po' di passaggio, non entrando magari nel merito dell'aspetto femminista, però non so se Anita vuoi dire qualcosa che un po' si lega anche a questo discorso del linguaggio, no? Mm-hmm. Cioè, ma allora, diciamo che a me il tema del linguaggio mi intrippa, come si, si sarà potuto capire. E poi appunto è un tema, volendo, oggi caldissimo, ci si può appunto anche spostare, diciamo, su altri orizzonti. Per esempio a me interessa tantissimo il discorso che fa sul linguaggio Preciado, che è appunto un filosofo spagnolo, tra l'altro allievo di Derrida, sarà un caso? No. Che appunto lui è un filosofo trans e quindi ovviamente parla tantissimo dell'esperienza trans e per esempio insiste tantissimo sul fatto che il linguaggio non può fondamentalmente acchiappare il transito che è la vita di una persona trans. E quindi è interessante perché appunto lui fondamentalmente gioca col linguaggio. Per esempio appunto lui ha mantenuto la B puntata del suo nome di nascita, Beatrice, insieme a quello di Paul. E questa è una cosa che gli è stata osteggiata in tutti i modi possibili, che non gli ha fatto avere il passaporto per un sacco di tempo, eccetera. Però lui finalmente è riuscito a mantenere questa cosa insieme e quindi avere il suo nome, che i suoi libri appunto sono firmati così, Paul B. Preciado. Sottolineando come appunto di fatto il linguaggio fondamentalmente appunto non basta in qualche modo, cioè appunto come fuori dallo specchio del linguaggio c'è tantissimo altro. Mm-hmm. E come bisogna appunto fare a pezzi questo specchio, cioè in qualche modo smagliarlo, riuscire a fargli insomma contenere anche quello che non ci sta in quella immagine, in quel fermo immagine di cui parlavamo prima, no? Io sono questo, io sono quello. Cioè lui parla proprio della necessità di smerigliare questa cosa che noi crediamo di essere. Quindi in qualche modo secondo me il discorso si riallaccia al discorso di Freud e di Lacan, cioè tu pensi di essere quella bella figurina, quella bella statuina, non lo sei, sei una cosa molto più grande. E quello che appunto aggiunge Preciado è: sei una cosa in transito, sei una cosa in transito tra tante categorie, anche tra quelle di genere. E su, cioè, parlando del linguaggio e di ciò che cede al linguaggio, sarà 20 anni prima, Adriana Cavarero aveva già parlato. In realtà lei fa parte di tutta una storia filosofica e politica completamente diversa rispetto a Preciado, è una femminista della seconda ondata. Ha scritto questo libro che si chiama A più voci, filosofia dell'espressione vocale, in cui va proprio ad analizzare il linguaggio da un punto di vista però della differenza, come dicevamo prima, tra ciò che viene detto e come lo si dice, quindi nel suo caso in particolare tra le parole di cui il linguaggio è composto e la voce che va a pronunciare queste parole. E quello che lei nota è che, ancora una volta, nella storia della filosofia occidentale ci si è concentrati molto di più sulle parole che vengono dette e non come queste parole vengono dette. E va a dire che invece nel come, nella voce, nell'aria che entra nel corpo e poi uscendo sfrega contro le corde vocali, fa vibrare la gola, fa vibrare la lingua, usa molto delle metafore che riprende anche da uno scritto di Calvino sull'ascolto, usa delle metafore che proprio parlano del corpo che mette voce e lo fa entrando in connessione con l'aria. E quindi lei va a notare quanto sia importante appunto questa voce che ci sta parlando e non solo ciò che dice. Qui dentro poi c'è tutto un discorso interessantissimo che io in realtà non ho affrontato nella mia tesi perché non c'era spazio, banalmente. Cioè ho dovuto decidere tra parlo di percezione di estetica o parlo di politica, e quello che ho scelto di fare è stato, e dichiarandolo nella tesi, è stato parlare di percezione di estetica, però avendo come luce che mi guida l'idea della politica. Quindi tra le righe c'erano anche queste cose. E queste cose riguardo Adriana Cavarero, le fa tutta un'analisi che mette insieme l'idea appunto dell'oculocentrismo di cui parlavamo prima, quindi della predominanza del senso della vista, e l'ordine simbolico patriarcale della nostra società. Quindi quello che leva a dire è, ci sono due, la nostra società è fatta da binarismi, questi binarismi, come dicevamo prima, dello specchio che emette tutto bianco e nero, notte e giorno, e sono questo e quello, e questo, non c'è nessuna via di mezzo. E tra i binarismi uomo e donna della società patriarcale, lei li associa anche al binario vista-udito e al binarismo linguaggio-voce. Per cui lei dice che, facendo tutta un'analisi dei testi della storia del pensiero occidentale, che quello che è successo in pratica è che alla figura dell'uomo è stata associata la capacità di razionalità e quindi di parlare, di esprimersi con un linguaggio che dice qualcosa, che quindi ha una struttura, una logica, ed è un linguaggio però che non viene parlato, che metaforicamente viene letto. Quindi è un linguaggio in realtà che non parte dall'orecchio, non parte dalla gola, non parte dalla bocca, ma parte dall'occhio, che stavamo parlando prima, un occhio che legge e che comunica leggendo. E questo è un po' il linguaggio dei filosofi, della filosofia occidentale, che in realtà la filosofia è nata da vite, da persone che chiacchieravano, che facevano cose come stiamo facendo noi adesso, però noi ce la immaginiamo come dei libri scritti, letti, sono quelli fissi e mutabili, quindi appunto un linguaggio visivo. Invece Cavarero dice, pensiamo invece alle figure femminili, pensiamo per esempio alle sirene che cantano, o in altre storie del mito che sono dei suoni piacevoli ma anche molto mostruosi. Pensiamo alle streghe, alla voce delle streghe, sempre una voce roca, non è una voce razionale. Pensiamo a tutte le eroine dell'opera sinfonica, cioè delle opere che sono delle eroine che cantano e cantando morendo. E pensiamo anche, dice, a tutte le figure mute che ci sono nella storia della narrativa e quanto spesso sono delle figure femminili piuttosto che delle figure maschili. Quindi leva a dire che nella nostra società, appunto in questo connubio tra ordine patriarcale e oculocentrismo, alla figura della donna viene tolta la possibilità di parlare razionalmente, perché quello è un linguaggio che parte dall'occhio, e viene solo lasciata la possibilità o di stare muta o di parlare irrazionalmente, di cantare, di urlare, di emettere dei suoni. E partendo però proprio da questi suoni, Cavarero se ne riappropria, dice appunto, come dicevamo all'inizio, quanto è importante la voce e quanto attraverso questi suoni, che non dicono necessariamente delle parole ABC logiche, 1, 2, 3, 2 più 2 fa 4, ma che dicono tutt'altro, magari è un urlo, magari è un pianto, magari è una risata, che poi però si trasforma in parola, che si trasforma in respiro, in persona che parla, lei se ne va a riappropriare, quindi fa tutto un discorso di riappropriazione femminista di che cosa voglia dire parlare, e quindi emettere suoni ed entrare in comunicazione tramite questi suoni. E quello che secondo lei vuole dire è entrare di nuovo in relazione con un'alterità che è la voce dell'altro, che rappresenta sempre l'unicità della persona che l'altra persona che mi trovo davanti, che non lo vedo solo attraverso il suo viso, il suo corpo, quello che vedo di lei, ma anche appunto attraverso l'ascolto della voce. Poi in realtà qua un po' ci cade, almeno dal mio punto di vista, Cavarero, perché comunque essendo una filosofa femminista, del femminismo della differenza, seconda ondata, lei va molto a rimarcare su la differenza sessuale, quindi sulla voce femminile, e a ricostruire quasi un binario tra la voce femminile e la voce maschile, che è una cosa che per esempio Preziado, di cui parlavamo prima, rinnegherebbe completamente parlando di trans, di un mondo, di una cultura trans. Però la cosa che rimane, secondo me, su cui si può anche ragionare e lavorare in dialogo con Cavarero, è che andare a vedere l'unicità e anche l'unicità sessuata di una voce non vuol dire per forza voce maschio, voce femmina, vuol dire anche voce di persona, per esempio, in transizione ormonale, o voce di persona che si allena per parlare in modo più roco o meno roco. Vuol dire, per esempio, voce di... questo aneddoto, cioè cosa pratica, poi mi fermo. Però una cosa che stavo parlando una volta con un'amica, il cui fratello è nell'adolescenza, e lei mi diceva come aveva notato che ancora prima che gli cambiasse la voce, lui avesse iniziato apposta a parlare più roco per essere più macho rispetto ai suoi amici. E lì per la prima volta mi ha fatto pensare, ecco perché io non ho, cioè anche un po' lo stereotipo della persona gay, la persona frocia, la persona non eterosessuale, non eteronormata, però amab, quindi nata sessualizzata maschio, che hanno una voce più acuta. Beh, magari semplicemente perché durante l'adolescenza non ti sei fatto lo sbatti di parlare più roco, perché non te ne fregava un cazzo, perché tanto c'avevi le amiche e non c'avevi gli amici malci. E quindi c'è, cioè, tutto un discorso sulle voci che si può fare, che appunto va a guardare all'unicità e alla proprio la singolarità di ciascuna persona e al mettersi poi in relazione con questa unicità. Sì. Poi penso che sia, cioè a me di questo discorso in verità interessa moltissimo l'aspetto più di come l'uomo possa riappropriarsi di questo tipo di voce invece che il contrario, cioè nel senso, certamente da donna ho vissuto tantissime situazioni in cui la mia voce è stata silenziata perché donna e quindi meno razionale, diciamo, per farla più in breve, e quanto invece penso che sia più importante che sia l'uomo a riappropriarsi di quel linguaggio emotivo, cioè quanto invece ci sono state tantissime situazioni in cui i miei amici maschi hanno fatto fatica o fanno fatica a esternare quell'aspetto più emotivo nelle proprie relazioni, quindi quanto questo crei degli ostacoli e quanto questo sia quasi più intrigante da indagare, cioè come si può decostruire quel tipo di linguaggio lì, macho, insomma, che poi non necessariamente è macho, credo che sia proprio la difficoltà di... vabbè, gesticolo molto. Suoni. Oggi li accettiamo in tutte le forme. No, quindi di decostruire quel tipo di approccio anche maschile, no? Cioè delle amicizie maschili che si basano molto su questa cosa qui, e magari poi adesso è sempre uno stereotipo, non voglio generalizzare, però mi è capitato spesso di... Poi vorrei tantissimo che venisse a parlare una mia amica che spero ci stia ascoltando, ciao Judy, che ha fatto una tesi sulla mascolinità e quindi su questo aspetto, per cui vabbè, forse lascerò a lei questo argomento. No, vabbè, secondo me sì, è interessantissimo, necessario, urgente tutto, e diciamo il discorso di decostruzione della maschilità, però per esempio invece a me interessa tantissimo anche il discorso invece speculare, che è il discorso per esempio di che tipo di donna sono io, che ho studiato per 7 anni filosofia, che ho fatto la tesi su Hegel, che ho fatto la tesi su Freud, su Lacan, che ho imparato il linguaggio fondamentalmente del mio oppressore, cioè il linguaggio di Freud, comunque per quanto io ami Freud, cioè lo difenderei a spada tratta il giorno del giudizio, nonostante lui parli dell'invidia del pene, ma io glielo perdono. Così come posso perdonare a Cavariero il fatto di comunque avere un retaggio della sua generazione e pensare che le donne e gli uomini siano due cose diverse, cioè comunque c'è una cosa che si chiama tempo, che non è una cazzata. Per quanto io non sia affatto d'accordo con lei, per esempio, e magari apprezzi di più invece una prospettiva come quella di Presiado. Però appunto a me interessa invece anche appunto il discorso speculare, quello che facevi tu, Laura, perché appunto, cioè, io mi interrogo sempre su questa cosa qua, cioè che donna sono io che parlo una lingua che è una lingua appunto che ha un po' una voce di strega, che nelle parole di Cavariero che usavi tu, Lollo, e un po' invece una voce di Hegel, una voce di Lacan, una voce di Freud, cioè sono un cane a 1000 teste, alcune di queste teste sono appunto strega, muta, non so, appunto cantante lirica e altre invece sono maschio vecchio con la barba, bavoso dell'Ottocento, ritratto nella biblioteca braidense, avete presente quelle cornici atroci in cui ci sono rigorosamente solo maschi tromboni vecchi, ecco, cioè che cosa fa del mio genere questa cosa qua? Questo è molto interessante secondo me. Vabbè, cioè, ci sarebbero 1000 discorsi da fare, cioè io vorrei... Forse... No, vai Lollo. Siamo in... possiamo essere addirittura di arrivo. Allora, faccio... No, in fretta anche... No, vabbè. Prima stavamo parlando un po' di suoni, mi avevi chiesto di Barthe e di Nancy. Che si collega un po', perché Nancy è pure un uomo bianco, eterosessuale, bla bla bla, cioè c'ha quel retaggio lì, filosofo. L'ho usato moltissimo nella mia tesi e ha dedicato un saggio tutto all'ascolto, alla musica e ai suoni. E io apprezzo tantissimo il suo modo di vivere la filosofia, perché è un modo che, pur essendo molto teoretico, appunto con quel retaggio, parte davvero tantissimo dal corpo, dai sensi e dalle percezioni. E lui va ancora al di là del discorso che facevamo prima sulla significanza, parlando di senso e della polivalenza della parola senso, che se ci pensiamo vuol dire sia un senso, lui chiama sensato, quindi quello che si pensa, cioè che cosa una cosa, il senso di una parola, però anche il senso come direzione, senso a sinistra o a destra, quindi in che senso vai, e anche il senso dei sensi sensibili, lui lo chiama il senso sensibile, quindi della percezione, dell'ascolto, bla bla bla. E lui unisce tantissimo queste due cose e dice che quello che ci insegna l'ascolto è di costruire una filosofia che parta dalla percezione, dall'instabilità della percezione di tutto ciò che ci circonda, dai suoni che sono sempre altri rispetto a noi, ma allo stesso tempo entrano dentro di noi, entrano nel nostro orecchio, vibrano con noi, quindi il nostro corpo si fa suono, si fa un luogo del suono. E però allo stesso tempo il senso appunto dell'ascolto dei suoni è anche sempre un senso che ha un significato, che ha tutta una tradizione, che ha una cultura. E quindi niente, spero che nelle future generazioni quello che possiamo riuscire a fare è connettere le due cose, essere sia streghe che ascoltano e che urlano e che mettono quei suoni che diventano improvvisamente delle bombe che scoppiano, ma delle streghe che attraverso il loro urlo anche rientrano in una tradizione di un senso sensato di pensiero, di comprensibile comunque, sì, di culture, sì. Leggibile e quindi comunicabile, sì. Ricordandoci sempre però che questa comunicazione è sempre una traduzione, è sempre un'alterità, è sempre un qualcosa che dobbiamo tradurre, che dobbiamo capire. E come possiamo farlo? Mettendoci in ascolto, metaforicamente, quindi ascoltando quindi con le orecchie. Quindi mettiamoci in ascolto. Mettiamoci in ascolto. Grazie a voi, grazie Exalge, grazie a Joe. E niente, allora adesso ci sarà questo momento invece di ascolto, di musica, di suoni, e quindi ci trasferiamo nella sala di là e facciamo una piccola pausetta in cui ci prepariamo. E metto come sottofondo Paulino Oliveros. Possiamo farci una breve introduzione a Paulino Oliveros, che è una compositrice che ha scritto due testi, uno si chiama Deep Listening e uno si chiama Quantum Listening, e lei dice che proprio quello che fa è comporre a partire dall'ascolto. Quindi è una compositrice della seconda metà del Novecento, molto lontana da quello che ci immaginiamo quando pensiamo alla parola compositrice, nel senso che lei compone molto con le altre persone, compone molto usando suoni diversi, è tutta improvvisazione, cioè di mentale, di scritto, di spartitura c'è davvero poco. E questo album si chiama Deep Listening e l'ha composto insieme a Stuart Dumpster e Panayotis. Semplicemente una certa si sono ritrovati, erano in viaggio in America e hanno detto c'era una cisterna, cioè una ex cisterna profonda, non mi ricordo quanti metri comunque, in cui non si sente nessun suono e c'è un riverbero pazzesco, e hanno detto andiamo lì dentro a improvvisare. All'ultimo hanno detto portiamoci dietro qualcosa per registrarci perché non si sa mai, e improvvisando è uscito fuori questo album. E una cosa interessantissima che lei dice è che lo spazio della cisterna era un altro strumento in dialogo con loro, quindi ci ricorda quanto appunto l'ascolto è sempre intorno a noi, i suoni sono sempre intorno a noi, dipendono dai contesti in cui siamo e come li stiamo vivendo. Buon ascolto. Questo è il famoso passo che abbiamo citato più volte di John Hall, tratto dal Dono Oscuro, autobiografia in cui lo scrittore, che è diventato cieco intorno ai 35 anni, racconta il proprio viaggio nell'imparare a navigare il mondo senza potersi servire del senso della vista. E dice: questa sera, verso le 9, mi stavo preparando per uscire. Ho aperto la porta di casa e stava piovendo. Sono rimasto fermo un paio di minuti, perso nella bellezza della pioggia. Ha un modo tutto suo di dare un contorno a ogni cosa. Getta una coperta colorata sopra cose prima invisibili. Dove prima c'era un mondo intermittente, quindi frammentato, ora la pioggia cadendo regolare da continuità all'esperienza acustica. Sento la pioggia che picchietta sul tetto sopra di me, che sgocciola sui muri a destra e a sinistra, cade dalla grondaia sul tetto a sinistra, mentre più là, sempre a sinistra, c'è un angolo dove la pioggia cade quasi impercettibile sulle foglie di un grande cespuglio. A destra tamburella su un prato con un suono più costante e profondo. Riesco persino a distinguere i contorni del prato che si solleva verso destra in una collinetta. Il suono della pioggia cambia e ne declina la pendenza per me. Ancora più a destra sento la pioggia risuonare sulla ringhiera che separa la nostra proprietà da quella a fianco. Più lontano, i rumori sono meno dettagliati. Sento la pioggia cadere sulla strada e il sibilo delle macchine che vanno su e giù. Sento l'acqua correre nel canale di scolo allagato a lato della strada. L'intera scena è molto più varia di quello che sono stato in grado di descrivere, perché ovunque ci sono brevi interruzioni nello schema, ostacoli, sporgenze, dove leggere sospensioni o differenze di consistenza o di eco aggiungono dettaglio o profondità alla scena. Sopra tutto l'insieme, come luce che cade su un paesaggio, c'è un sottile ticchettio di sottofondo inglobato nel mormorio costante della pioggia. Questa esperienza di affacciarmi su un giardino bagnato dalla pioggia deve essere simile a quella vissuta da un vedente quando tira le tende e guarda il mondo là fuori. Di solito, quando apro la porta di casa, ci sono diversi suoni spezzati, sparsi nel vuoto. So che al passo successivo sarò sul vialetto e che a destra la mia scarpa incontrerà il prato. So che tutte queste cose, quelle cose che conosco, sono lì, ma lo so dalla mia memoria. Non danno nessuna prova immediata della loro presenza. Le conosco solo in forma di predizione. Sono ciò che sperimenterò nei prossimi secondi. In un colpo solo la pioggia conferisce pienezza a un'intera situazione, non semplicemente al suo ricordo o alla sua previsione, ma qui e ora. Dà un senso di prospettiva mostrando l'effettiva relazione tra le parti del mondo. Se solo la pioggia cadesse in una stanza mi aiuterebbe a capire dove stanno le cose, mi darebbe la sensazione di trovarmi davvero lì, anziché essere soltanto seduto su una sedia. È un'esperienza di straordinaria bellezza. È come se il mondo, nascosto dietro un velo finché non lo tocco, mi si rivelasse improvvisamente. Sento che la pioggia è generosa, che mi ha concesso un dono, il dono del mondo. Non sono più isolato, assorbito dai miei pensieri, concentrato sul da farsi. Anziché dovermi preoccupare di dove sarà il mio corpo e di che cosa incontrerà, mi viene regalata una totalità, un mondo che mi parla. Ho afferrato il perché di tanta bellezza. Quando ciò che si deve comprendere è in sé così vario, complesso e armonioso, allora anche la conoscenza della sua realtà finisce per acquistare le stesse caratteristiche, e anche io mi sento colmare da un senso di varietà, complessità e armonia. La conoscenza in sé è bella, perché fa di me uno specchio di quello che c'è da conoscere. Mentre ascolto la pioggia, sono l'immagine della pioggia, sono un tutt'uno con lei. Thank you. questo pezzo si chiama Da terre, terre e paesaggi stranieri, terre, uomini stranieri, persone, togliamo gli uomini. E, è il primo pezzo delle scene infantili di Schumann e mi è piaciuto iniziare con questo perché ci racconta un qualcosa che è diverso, ma che si rapporta al bambino in questo caso, parlando di scene infantili, e quindi di pensare al suono, come dicevamo prima nella nostra puntata, come qualcosa che è sempre diverso, ma che sempre cerchiamo di capire ponendoci in una relazione d'ascolto. E quindi proveremo a mettere insieme tra di loro suoni diversi che apparentemente non c'entrano nulla, ma che magari ascoltandoli ci insegneranno a trovare una qualche connessione tra uno e l'altro. Thank you. also sound houses where we practice and demonstrate all sounds and their generation. We have harmonies which you have not, of quarter sounds and lesser slides of sounds, diverse instruments of music, likewise to you unknown, some sweeter than any you have, together with bells and rings that are dainty and sweet. We represent small sounds as great and deep, likewise great sounds extenuate and sharp, and we make diverse tremblings and warblings of sounds, which in their original are entire. We represent and imitate all articulate sounds and letters, and the voices and notes of beasts and birds. We have certain helps which set to the ear and do further the hearing quality. We have also diverse strange and artificial echoes, reflecting voice strange and artificial echoes, as it were tossing the voice, and some that give back the voice louder than we came, and some shriller and some deeper. Some rendering the voice differing in the letters or articulate sounds. Some rendering the voice differing in the letters. We have also means to convey sounds in trunks and pipes, in strange lines and distant. Thank you. Thank you. tu. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Yo por mi parte. Y intento enviarte por telepatía. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? We'll be right back.

e di dolore musica, fanciulla esangue, segnato di linea di sangue nel cerchio delle labbra sinuose, regina della melodia, ma per il vergine capo reclino, io poeta notturno, vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo, io per il tuo dolce mistero, io per il tuo divenir taciturno. Non so se la fiamma pallida fu dei capelli il vivente segno del suo pallore, non so se fu un dolce vapore, dolce sul mio dolore, sorriso di un volto notturno. Guardo le bianche rocce, le mute fonti dei venti e l'immobilità dei firmamenti e i gonfi rivi che vanno piangenti e l'ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti e ancora per teneri cieli lontane chiare ombre correnti e ancora ti chiamo, chimera.